potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. scuolaformazionecinofila.it. C'è un'esperienza universale che quasi chiunque abbia mai condiviso la vita con un cane credo conosca fin troppo bene. Direi proprio di sì. Cioè, si apre la porta di casa dopo una giornata pesantissima al lavoro. Si entra e ci si ritrova davanti a questi due occhi profondi, mobilissimi, che fissano intensamente. La classica scena. Esatto. E in quel preciso istante il cervello umano fa un salto logico quasi automatico, del tipo sa esattamente che giornata ho avuto. Sente il mio stato d'animo. Proprio così. Mi sta aspettando per confortarmi. Ed è un'illusione bellissima. E insomma, molto rassicurante. Ci fa sentire decisamente meno soli. Sicuro, è una sensazione molto potente. Ma oggi, in questa nostra esplorazione, prenderemo questa fiaba dai contorni quasi disneyani e, letteralmente, la smonteremo pezzo per pezzo. Sarà un viaggio interessante. Assolutamente. Usando come bussola un materiale tecnico che io ho trovato estremamente rivelatore. Si intitola La meccanica della relazione, oltre le narrazioni, a cura dell'educatore e formatore cinofilo Michele Amico. Un testo davvero illuminante. Sì, perché ci porterà a guardare il vero motore biologico del cane. Perché continuare a trattare questo predatore come un piccolo coinquilino umano coperto di pelo non solo è scientificamente inaccurato, ma sta di fatto sabotando la nostra reale capacità di comprenderlo. Io per prima confesso di caderci spessissimo. Ma guarda, è del tutto normale caderci. Il problema di quella scena idilliaca sull'uscio di casa è che nasce da un riflesso condizionato che è tutto umano. In che senso tutto umano? Nel senso che noi siamo per natura delle macchine narrative. Sopravviviamo e diamo senso all'universo intorno a noi costruendo storie. E il testo che stiamo analizzando mette il dito proprio in questa piaga, evidenziando che le parole che scegliamo di usare non sono mai neutre. Certo, le parole creano la nostra realtà. Esatto. Quando applichiamo un vocabolario tipicamente umano per descrivere la reazione di un animale, stiamo letteralmente piazzando uno schermo fumogeno sulla sua realtà biologica. Creiamo un'illusione. Un'illusione che ci fa sentire molto bene, senza dubbio, ma che alla fine ci impedisce di leggere cosa sta realmente accadendo nella neurologia di quell'organismo in quel momento. Ok, analizziamo bene questo punto, perché ci porta subito al grande paradosso del mondo cinofilo. Che è diffusissimo. Diffusissimo. Se si ascolta chiunque abbia un cane, la prima regola che viene sempre ripetuta a memoria è: il cane non è un bambino e non va trattato come tale. Sembra un concetto super assodato ormai. A parole sono tutti d'accordo. Esatto. Eppure, un secondo dopo, la stessa identica persona userà espressioni come ti sta dicendo che è offeso, oppure mi chiede aiuto, o la frase in assoluto credo più diffusa, ha distrutto il cuscino del divano per farmi un dispetto perché l'ho lasciato solo. Guarda, quell'espressione, la frase è per dispetto, è forse il capolavoro assoluto dell'antropomorfismo tossico. Ed è proprio il punto di rottura focale nel testo di Amico. Perché è così dannosa? Perché quando diciamo che un cane fa un dispetto, non stiamo facendo un banale errore di vocabolario. Stiamo compiendo una trasformazione letale per la nostra comprensione. Cioè? Stiamo prendendo una pura risposta fisiologica, magari dettata da un disagio o da un accumulo di energia inespressa, e la stiamo trasformando in un dialogo morale. Un dialogo morale. Un'espressione che suona molto complessa. All'atto pratico, significa che stiamo accusando il cane di avere un'etica. Praticamente sì. Significa che gli stiamo attribuendo la capacità sofisticatissima di distinguere il bene dal male secondo le categorie della nostra società umana. Ah, wow. E soprattutto gli stiamo attribuendo l'intento della rivalsa, la vendetta, la premeditazione. Ma l'architettura cognitiva del cane non prevede assolutamente nulla di tutto ciò. Quindi zero premeditazione. Zero. Un cane non conosce la ripicca. Non pianifica di distruggere un oggetto per infliggere un dolore emotivo al proprietario in risposta a un torto percepito ore prima. Quella è pura fantascienza. Attribuirgli questo livello di astrazione morale crea solo una nebbia fittissima. Cioè, se uno ci pensa razionalmente, È un po' come prendersela con la propria lavastoviglie o con il tostapane. L'analogia è perfetta. Convincendosi che il tostapane abbia bruciato il pane per dispetto solo perché la mattina eravamo di fretta, stiamo proiettando una narrazione complessa, una specie di telenovela, su un meccanismo che fa semplicemente il suo lavoro. È esattamente quello che facciamo. Ma qui, e credo di parlare a nome di chiunque ci stia ascoltando, sorge una resistenza istintiva fortissima. Lo so, l'obiezione del senso di colpa. Esatto, perché quando il cane viene rimproverato per il famoso cuscino distrutto, abbassa lo sguardo, appiattisce le orecchie, si fa piccolo piccolo, sembra palesemente consumato dal senso di colpa. Certo, sembra così. Come si fa a smontare questa illusione quando la stiamo letteralmente guardando con i nostri occhi? La vediamo. Quella che tu chiami illusione visiva si smonta in un attimo. Nel momento in cui smettiamo di giudicare e iniziamo finalmente a osservare la meccanica della situazione. Osservare e non interpretare. Esatto. Quella postura di chiusura, il farsi piccoli, il distogliere lo sguardo, non è una riflessione filosofica sul peccato appena commesso. È una strategia di sopravvivenza in tempo reale. Ah, aspetta, una strategia di sopravvivenza? Sì. Il cane sta reagendo a uno stimolo ambientale presente e immediato. Sente la tensione muscolare del proprietario, sente il tono di voce alterato. I feromoni dello stress. Proprio quelli. Di fronte a un potenziale predatore o a un membro del gruppo visibilmente irritato, il corpo del cane mette in atto una risposta pacifica, un comportamento di sottomissione. Che serve a fare cosa? Serve esclusivamente a disinnescare il conflitto. Sta cercando di salvarsi da un'aggressione imminente, non sta chiedendo perdono per il cuscino. Per capire il cane, dobbiamo smettere di guardare lo specchio umano e aprire il cofano della sua biologia. E allora apriamolo, questo cofano, perché se togliamo l'intento morale, i dispetti, il senso di colpa, chi sta ascoltando si chiederà giustamente cosa muove questo animale. È la domanda centrale. Le nostre fonti decostruiscono il motore interno del cane in tre componenti meccaniche molto precise. E partiamo dalla base assoluta, quello che l'autore chiama l'hardware, cioè l'istinto. L'istinto è il codice sorgente. È il vero e proprio patrimonio genetico. La memoria della specie che il cane porta impressa nel suo sistema nervoso fin dal primo respiro. Quindi cose che non deve imparare. Esatto. Parliamo di schemi d'azione fissi e innati. La propensione a inseguire un bersaglio in movimento, la tendenza a esplorare l'ambiente attraverso la mappatura olfattiva, oppure l'impulso a sorvegliare un perimetro. E questo cambia da razza a razza, immagino. Certamente, ma la cosa fondamentale da interiorizzare qui è che l'istinto non è mai una scelta ponderata. Il cane non decide razionalmente di lanciarsi all'inseguimento di una bicicletta perché lo ritiene un passatempo stimolante. Non è un hobby. Non è un hobby. Il suo hardware genetico è semplicemente preprogrammato per attivare una sequenza motoria specifica ogni volta che un certo stimolo attraversa il suo campo visivo. Però, insomma, logicamente un cane non passa l'intera giornata a inseguire convulsivamente ogni singola cosa che si muove fino a crollare a terra sfinito. Qualcosa deve accendere questo hardware di volta in volta. Ottima osservazione. E qui le fonti introducono il concetto di impulso o pressione. Che è quello che trasforma la potenzialità dell'istinto in un'azione inarrestabile. Questo è forse il passaggio neurobiologico più affascinante dell'intera esplorazione. L'impulso non è un'idea fugace. Non è, per capirci, come quando a un essere umano viene voglia di un caffè metà mattina e se non c'è, pazienza, se ne fa una ragione. Sarebbe un semplice capriccio. Nel cane l'impulso genera una reale e misurabile tensione fisiologica, una vera e propria pressione idraulica interna. Il registro occulto di questa pressione è la neurochimica. In particolare la dopamina, se non sbaglio. In particolare i circuiti legati alla dopamina. Attenzione però, perché qui si commette spesso l'errore di pensare alla dopamina come all'ormone del piacere o della gratificazione finale. Cosa che ci hanno sempre detto. Nelle dinamiche predatorie e istintuali del cane, invece, la dopamina è la molecola del desiderio acuto, dell'anticipazione insopprimibile. Crea un accumulo di tensione neurologica che esige quasi dolorosamente di essere scaricata attraverso l'azione. Quindi lo spinge ad agire. Questa carica neurochimica spinge l'animale verso l'obiettivo con un'ostinazione che a noi umani sembra follia, finché non arriva all'azione finale che abbatte quella pressione. Ok, quindi per provare a visualizzarlo meglio, non stiamo parlando di una batteria del cellulare che piano piano si consuma. No, direi di no. È più simile a una pentola a pressione. L'istinto è l'acqua dentro la pentola, ma l'impulso è il fuoco che viene acceso sotto. Perfetto. E quando la pressione del vapore diventa insostenibile, la valvola deve per forza sbuffare, altrimenti il sistema salta in aria. Cioè, il cane non insegue per divertimento, insegue perché deve fisiologicamente abbassare quella tensione interna che è diventata disperata. È una metafora visiva che rende perfettamente la meccanica del fenomeno. L'animale è spinto da una necessità imperativa. E questo ci aiuta a ripulire anche il terzo termine di questa triade. Un termine che, tra l'altro, nel mondo dell'addestramento subisce abusi continui, vero? Parlo della motivazione. Abusatissimo. Si sente ripetere ossessivamente. Il mio cane ha una fortissima motivazione al lavoro. Come se l'animale fosse un impiegato modello animato da, non so, una ferrea etica professionale. O dal desiderio romantico di compiacere il suo padrone. Esatto. La parola stessa, motivazione, nel nostro linguaggio umano, implica un ragionamento sui propri obiettivi di vita, le proprie ambizioni. Ma suppongo che, biologicamente parlando, non abbia nulla a che fare con le aspirazioni personali del cane. Assolutamente no. Biologicamente la motivazione è lo stato interno, puramente transitorio, che rende uno specifico stimolo esterno irresistibile in quel preciso millisecondo. È il ponte tra la pressione interna di cui parlavamo prima e il mondo esterno. Esattamente. Se un cane è in privazione alimentare, il cibo diventa uno stimolo ad altissima motivazione. Se ha accumulato giorni di pressione sul fronte predatorio senza poterla mai scaricare, una semplice pallina in movimento diventa il bersaglio unico della sua tempesta dopaminergica. Quindi non è bravo, è solo sotto pressione. Il cane non è motivato perché vuole renderci fieri di lui. È motivato perché in quel frangente il suo sistema nervoso è disperatamente orientato verso l'unica cosa che può garantirgli la gratificazione fisiologica, abbassando così quella famosa pressione della pentola. Devo dire che questo cambio di prospettiva è devastante, nel senso migliore del termine. Pulisce via un sacco di cose. Sì, pulisce via tonnellate di aspettative umane. Ma, insomma, apre anche un bel baratro, perché se un proprietario interiorizza davvero questo concetto, cioè che il cane è mosso da tensioni chimiche e schemi genetici e non da emozioni romanzate, la domanda successiva sorge spontanea. Ed è brutale. Come diavolo facciamo a parlarci? E la fonte di Michele Amico, arrivati a questo punto, fa una scelta che sulle prime sembra quasi provocatoria. Ci chiede di prendere la parola comunicazione, accartocciarla e lanciarla fuori dalla finestra. E fa molto bene a chiederlo, perché per noi umani comunicare significa trasmettere un pensiero strutturato affinché l'altro lo decodifichi e lo comprenda razionalmente. Mettendoci dei sottotitoli mentali. Esatto. Ma i cani non inviano messaggi in codice usando i muscoli del volto o la coda. Per capire come si scambiano realmente informazioni, l'autore prende in prestito un concetto fondamentale dalla psicologia della percezione, che sono le affordance. Affordance, una parola che sinceramente suona freddissima e anche un po' accademica. Possiamo tradurla per renderla più tangibile per chi ci ascolta? La traduzione più pratica e utile è maniglia o invito all'uso. Ok, una maniglia. Un affordance non è mai una frase, è una specifica configurazione fisica, spaziale o sociale che l'animale crea con il proprio corpo per rendere un'interazione possibile oppure impossibile. Quindi non c'è narrazione? Nessuna narrazione. C'è solo disponibilità o indisponibilità meccanica all'azione. E le fonti dividono queste maniglie in due grandi categorie. Da una parte abbiamo le affordance. Sì, che sono insomma gli inviti chiari e netti all'azione. L'esempio portato nel testo è una scena che chiunque ha visto in un'area cani. Il famoso inchino per invitare al gioco. Una postura inconfondibile. Sì, l'animale abbassa la parte anteriore, poggia i gomiti a terra e tiene altissimo il posteriore scodinzolando. E noi umani traduciamo subito quella scena mettendogli sottotitoli del tipo «Ehi amico, ti va di rincorrerci un po'?» Ma ancora una volta il cane non sta formulando una domanda verbale. Non sta dicendo «Ehi amico». Con l'inchino il cane sta creando una cornice. Una cornice in che senso? Sta alterando la sua configurazione fisica per dichiarare all'altro animale una cosa ben precisa. Tutto ciò che accadrà da questo momento in poi all'interno di questa configurazione non è reale. Ah, è un'affordance potentissima. Incredibilmente potente. In virtù di quella maniglia sociale, un morso che normalmente causerebbe una reazione letale di difesa perde di colpo la sua valenza aggressiva. diventa innocuo, diventa sicuro. Rende possibile l'azione caotica e anche violenta del gioco senza che scatti l'istinto di sopravvivenza. Affascinante. C'è un altro esempio? Un altro esempio, un po' più sottile, è l'ingaggio sociale. Quando il cane si avvicina, ammorbidisce la muscolatura, magari piega leggermente la spina dorsale. Non sta dichiarando a parole «ti voglio bene». Sta offrendo letteralmente una maniglia fisica per permettere l'azione dell'avvicinamento e del contatto da parte nostra o di un altro cane. Viene con l'altra categoria, cioè le affordance no. L'indisponibilità. L'indisponibilità totale. L'esempio riportato nel testo è l'irrigidimento del corpo. Magari stiamo, che so, pulendo le zampe al cane dopo una passeggiata nel fango, o gli stiamo mettendo la pettorina per uscire, e lui improvvisamente diventa una statua di sale. Si blocca. Si blocca. I muscoli si tendono e il respiro cambia. E qui, puntualmente, scatta l'errore umano. L'errore fatale, oserei dire. E qual è esattamente questo errore? Che l'umano cerca di superare quell'irrigidimento con la persuasione. Il corpo del cane si è trasformato in un oggetto non disponibile. Ha ritirato la maniglia, l'affordance non c'è più. Ma il proprietario, convinto di dover comunicare, inizia a parlargli con voce suadente. Tipo, dai, su, non fare così. Esatto, lo accarezza per tranquillizzarlo. Magari fa anche un po' di forza fisica per fargli infilare quella zampa. Ma l'affordance è negata. Il canale è completamente chiuso. È un'immagine chiarissima. Qui la cosa si fa davvero interessante. Se posso azzardare un paragone tecnologico, visto che usiamo questi termini, è un po' come trovarsi davanti al monitor del computer e cliccare ossessivamente su un link rotto di un sito web disattivato. Proprio così. La pagina ti sta già dando un errore, tipo 404 not found. Ti sta dicendo meccanicamente che la risorsa non è disponibile, ma tu continui a cliccare il mouse con una foga assurda, pensando che prima o poi si aprirà. E se continuiamo a cliccare su quel link rotto nel cane, ignorando la sua affordance negata, il sistema informatico canino a quel punto finisce per emettere un allarme di sistema molto molto più grave. Un allarme del tipo: per ripristinare la distanza e interrompere la forzatura umana continua, il cane è costretto a ricorrere a un ringhio, a una pinzata a vuoto o purtroppo a un morso vero e proprio. E lì l'umano ci rimane malissimo. L'umano cade dal pero, sostenendo che il cane lo abbia tradito o che sia impazzito all'improvviso, quando in realtà l'animale aveva semplicemente chiuso il canale meccanico dell'interazione molto prima. Non c'è stata nessuna comunicazione fallita, c'è stata solo un'assurda insistenza umana su una maniglia inesistente. Eh certo, però qui devo fermarmi un attimo per fare la parte dell'avvocato del diavolo, perché sento quasi il peso emotivo di chi ci sta ascoltando in questo momento. Vai, dimmi. Se si dipinge il cane in questo modo, cioè istinti primordiali, valvole di pressione dopaminergica che si aprono e si chiudono, e interazioni regolate da fredde maniglie fisiche, sembra che stiamo parlando di, non lo so, un aspirapolvere robot con la pelliccia. Un Roomba canino. Esatto. Qualcosa che sbatte contro i muri dell'ambiente finché non trova per caso la sua stazione di ricarica. E quindi la domanda è: dov'è finita l'intelligenza di questo animale meraviglioso? È davvero possibile che non ci sia intelligenza dietro quegli occhi? Questa è un'obiezione essenziale, ma parte da un malinteso profondo. Affermare che il cane non usa la nostra logica narrativa umana, quella basata su passato e futuro, per intenderci, non significa in alcun modo dargli dello stupido automa. Quindi l'intelligenza c'è. È come se c'è. Il cervello del cane è estremamente sofisticato. Semplicemente utilizza un'intelligenza di tipo pratico, utilitaristico. Il testo la definisce in un modo molto bello. Parla di navigatore cognitivo. Navigatore cognitivo? Il cane non usa la mente per scrivere romanzi sul senso della vita. La usa per calcolare in frazioni di secondo come muoversi con successo in un mondo caotico. Infatti, il testo usa un termine molto specifico per questa abilità. Parla di valutazione. La valutazione è il vero cuore dell'intelligenza canina. Immagina per un attimo la complessità dell'ambiente urbano in cui costringiamo i nostri cani a vivere ogni giorno. Traffico, rumori, persone. Esatto. Da una parte c'è il rombo di un camion, dall'altra l'odore di cibo abbandonato, e al centro c'è il proprietario che offre un premio. Il navigatore cognitivo valuta simultaneamente i pesi specifici di tutti questi stimoli contrastanti. Fa dei calcoli pazzeschi in background. E decide con una freddezza e una precisione quasi matematica quale affordance afferrare per garantire il massimo vantaggio o la massima sicurezza al suo organismo in quel momento esatto. Ma guarda che c'è di più. Cosa? L'intelligenza del cane rifulge veramente in quello che potremmo definire lo sviluppo del suo software. Ah, le affordances sociali apprese. Ne parlavano le fonti e c'è questa netta distinzione. Fondamentale. Da una parte ci sono le maniglie genetiche, l'hardware, che emergono nei primissimi mesi di vita, cioè quegli incastri sociali basilari che servono ai cuccioli per sopravvivere e capire la prossemica, le giuste distanze tra gli individui. La dotazione di base. Ma poi subentra la vita reale, con l'essere umano in casa. E qui il cane dimostra una genialità adattiva spaventosa, perché inizia a costruire le sue maniglie personalizzate. Questa è davvero la chiave di volta del comportamento appreso. Attraverso la pura ripetizione e l'esperienza continua, il cane mappa le relazioni di causa ed effetto dell'ambiente circostante, ma soprattutto, e questa è la parte geniale, mappa il comportamento del suo proprietario. Ci studia in pratica. Inizia a capire che, compiendo una determinata azione fisica, innescherà inevitabilmente una reazione a catena prevedibile e a lui vantaggiosa da parte nostra. E guarda, l'esempio citato dall'autore per spiegare questo concetto è di una genialità disarmante, perché smaschera in un secondo le nostre illusioni quotidiane. Quello della porta. Esatto. Parliamo del cane che improvvisamente va a sedersi immobile davanti alla porta di casa, fissando la maniglia della porta. E il proprietario, commosso da questa scena romantica, pensa: «Oh, sta guardando fuori, ha nostalgia dei prati verdi, mi sta comunicando il suo immenso amore per la natura». Una bellissima poesia, sì. Ma la fonte ci dice che la realtà dei fatti è molto, molto più algoritmica. Totalmente algoritmica. Il cane non sta componendo nessuna poesia sulla natura. Ha molto più semplicemente craccato il sistema del proprietario. Hackerato proprio. Il suo navigatore cognitivo ha processato una sequenza infallibile nel corso del tempo. Del tipo: in passato, quando ho posizionato il mio peso corporeo esattamente su questa mattonella, davanti a questa barriera di legno, il grosso primate senza peli si è alzato dal divano. Poveri noi. Ha prodotto un suono vocale specifico, ha preso un pezzo di cuoio, il guinzaglio, e mi ha permesso di uscire per scaricare la mia pressione esplorativa. Quindi non c'è romanticismo. C'è pragmatismo puro. Il cane ha creato una affordance dal nulla, una maniglia visiva così potente che costringe noi umani ad agire. Ha letteralmente inserito una riga di codice nel suo software relazionale per manipolare l'ambiente a suo vantaggio. Ed è incredibilmente affascinante, perché ci dimostra che il cane è tutto tranne che stupido, è un maestro assoluto del calcolo utilitaristico. E questo ci spinge dritti verso le conclusioni di questa esplorazione basata sulle osservazioni di Michele Amico. Tiriamo le fila. L'appello forte che emerge dalle fonti è quello di abbandonare definitivamente la cinofilia dell'interpretazione emotiva per abbracciare quella che l'autore definisce una cinofilia dell'osservazione meccanica. Che è l'unica via d'uscita. Significa smettere di farsi film su cosa stia pensando o provando moralmente il cane, per concentrarsi lucidamente su quali azioni stia rendendo possibili o impossibili in quel frangente col suo corpo. E ti assicuro che a livello pratico questa presa di coscienza cambia assolutamente tutto nella convivenza. Come mai? Perché educare un cane non ha nulla a che vedere con le dinamiche di persuasione che usiamo, per esempio, con un bambino. Non si può negoziare con un impulso idraulico spiegando a parole i motivi logici dietro a una regola. Perché le parole non arrivano. Non vengono processate in quel modo. Educare significa costruire per l'animale un sistema di maniglie fisiche e relazionali che siano chiare, coerenti e incrollabili. Un sistema all'interno del quale l'immensa pressione dei suoi istinti primordiali possa trovare dei canali di sfogo sicuri e costruttivi. Se capisci la meccanica, smetti di lottare contro la biologia. C'è un senso di profonda liberazione in questo, vero? Cioè, per chiunque ci ascolti e viva quotidianamente con un cane, questa consapevolezza dovrebbe funzionare come una sorta di balsamo. Toglie tantissimo stress. Toglie dalle spalle un peso emotivo insensato. Se capiamo che stiamo gestendo spinte neurochimiche innescate da un patrimonio genetico millenario e non complessi grovigli psicologici o dispetti, non c'è più spazio per il senso di colpa. Nessuno. Non dobbiamo più sentirci inadeguati per non aver decifrato parole inespresse, per il semplice fatto che quelle parole non sono mai esistite nella mente dell'animale. Rimuovere l'umano dal cane non significa svilirlo. Insomma, significa finalmente accordargli il rispetto di vederlo per la macchina biologica magnifica e perfetta che è. Sono d'accordo. È la forma più alta di rispetto possibile, riconoscere la sua alterità, senza avere la presunzione di doverla per forza tradurre nel nostro limitatissimo vocabolario umano. E proprio su questo confine tra le nostre illusioni e la loro biologia, voglio lasciarvi con una provocazione, un piccolo tarlo su cui riflettere stasera. Sentiamo. Abbiamo speso quest'intera analisi a spiegare come il cane non ragioni come noi, ma sia dotato di un formidabile navigatore cognitivo capace di mappare l'ambiente e, come abbiamo visto nell'esempio della porta, di mappare chirurgicamente le nostre reazioni umane per abbassare le sue pressioni interne. Questo è un fatto assodato. Questo però solleva una domanda piuttosto inquietante. La prossima volta che sarete comodamente sul divano e il vostro cane, compiendo una sequenza di movimenti precisissima, vi indurrà ad alzarvi per dargli uno snack o lanciargli la palla per l'ennesima volta, fermatevi un secondo. E chiedetevi cosa? Chiedetevi se siete davvero sicuri di essere stati voi ad addestrare lui o se invece è lui che, mappando sapientemente i vostri bottoni e creando le perfette maniglie invisibili, ha addestrato in modo assolutamente impeccabile voi. Alla prossima esplorazione. Potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. scuolaformazionecinofila.it